Per noi è la 18ª edizione, quindi ormai siamo maturi, ecco, per un percorso che va avanti da tantissimo tempo, che coinvolge tutta la nostra città, ma anche tanti personaggi che nel corso degli anni sono venuti a Casalecchio in una rassegna che ormai è nazionale, a parlare di cultura della legalità, della trasparenza, dei fenomeni malavitosi, come si può evitarli, eccetera. Per noi è sempre un momento che ci serve e crediamo serva a tutti per ragionare su questi temi e creare quegli aspetti di attenzione da parte di tutti sulla vita quotidiana, ma anche creare quella cultura che sia un po' da barriera ai fenomeni malavitosi. Noi abbiamo un grande cantiere, ad esempio, che è Nodo Ferrostradale, che è il più grosso cantiere dell'ANAS in Emilia Romagna al momento, e chiaramente abbiamo fatto anche noi dei percorsi con i cittadini, finanziati tra l'altro dalla Regione Emilia Romagna, per ragionare di legalità, di attenzione, che vuol dire i grandi eventi malavitosi, ma anche un modo di vivere quotidiano che genera il fatto di non lasciare spazio a una cultura che non sia legale nei comportamenti e nelle scelte. Devo ringraziare Carlo Lucarelli, che da tanti anni ci segue da sempre e quindi anche quest'anno avrà una bella presenza e indirizza anche con attenzione questi temi.